secondo l'associazione degli esercenti che risponde a Di Maio, ma appunto sono comunque dei dati più o meno pubblici, effettivamente sembra esserci anche un incremento del fatturato e anche un aumento di posti di lavoro. Loro parlano di circa 10.000 occupati nel 2018, e come ogni volta, come ogni puntata, chiediamoci però innanzitutto che tipo di lavoro stanno creando. Sappiamo che la grande distribuzione, quindi il retail e tutto, è uno dei luoghi di maggiore sfruttamento, intensificazione dei turni, contratti sempre più precari, esplode la somministrazione, il lavoro a chiamata e soprattutto salari abbastanza bassi, e dall'altro lato appunto vendite e fatturato che vengono proprio intascate, diventano i profitti in qualche modo delle aziende, tra l'altro sempre più multinazionali, che sono quelle che effettivamente stanno, riescono, no, a rimanere aperti 7 giorni su 7, 24 ore su 24 anche in qualche caso, quindi come dire, dipende per chi questi vantaggi, e soprattutto a discapito poi di cosa. Vediamo, al di là della questione lavoro, c'è proprio una commercializzazione, se vogliamo, anche dell'urbanistica, di città che diventano pieni centri commerciali, vengono svuotate da tutt'altra attività, cioè che possono essere appunto anche culturali o di abitabilità. Basta pensare, secondo me, alle stazioni, quello che è diventato il business delle grandi stazioni, dove non c'è più spazio per i viaggiatori in sé, ma diventa tutto un grande centro commerciale. Il tema sollevato, secondo me, poi un'altra cosa, non so se abbiamo tempo di approfondirla. Di Maio, come dire, il movimento anche della, no, dei lavoratori del commercio si è fatto sentire in campagna elettorale, effettivamente è stato uno dei bacini enormi per il Movimento 5 Stelle, ma allo stesso tempo è stato anche in qualche modo supportato da varie battaglie, vertenze di sindacalisti. Ieri Francesco Iacovone, che adesso è del Nazionale Cobas, è intervenuto proprio al Ministero dello Sviluppo Economico, e allo stesso modo, no, sappiamo che Di Maio è andato a incontrare i rider, cioè coloro che effettivamente si sono mobilitati. Quindi, come a dire, c'è un interesse verso il mercato del lavoro, ma quello che fa notizie, quando sappiamo che il precariato in qualche modo aggredisce molte più istanze, molti più settori. Certo, non sono solo appunto questi settori, per quanto ad esempio quello dei riders sicuramente marginale rispetto all'intera economia, però sulla questione delle liberalizzazioni, come dire, dal giorno della sua approvazione fino ad oggi, i sindacati hanno sottolineato come questo abbia peggiorato le condizioni di vita delle persone, perché lavorare la domenica, riposarsi la domenica non è come riposarsi il giovedì, per dire, ma banalmente magari uno ha una famiglia, ha dei figli o vuole andare in un museo eccetera, e questa legge ha portato via con sé tutte le maggiorazioni per il lavoro festivo che c'erano prima, quindi per quanto riguarda la qualità del lavoro probabilmente, insomma, le cose sono peggiorate. Sì, questo è quello che poi appunto tecnicamente si estrinse il peggioramento nell'organizzazione del lavoro, che poi appunto sinteticamente avevo chiamato intensificazione dei turni con bassi salari. Ci sono, secondo me, da dire due cose. Quindi, se è vero che vengono ridotte le maggiorazioni sugli straordinari, vengono imposti, se vogliamo, i turni, anche perché poi entrano anche come fattore per aumento della produttività, di cui il fatturato è una delle voci principali, sappiamo che i lavoratori, per ottenere quel po' di premio produttività, che rimane sempre una promessa, devono necessariamente sottostare comunque all'imposizione di turni. Per quanto riguarda festivi e domeniche, allora la questione, secondo me, ovviamente oggi, così come ancora è impostata la società, la scuola e tutto, la domenica rimane il giorno, diciamo, di riposo più tradizionale, perché appunto la famiglia si riunisce, ma anche fuori dalla famiglia, cioè tutti quelli che non hanno una famiglia, al di là della domenica, hanno tutto il diritto di non dover lavorare necessariamente, no, a turni indefiniti, turni abbastanza lunghi, molti meno riposi e così via. Soprattutto anche su un altro punto rispetto all'organizzazione del lavoro, perché quando si dice sostanzialmente, quindi una questione però più macroeconomica, quando noi diciamo che è aumentato il fatturato e proprio quello dei fine settimana e dei festivi aumenta, è perché ovviamente sempre più persone, come sappiamo, allungano i tempi di lavoro riducendo quelli di vita, e di conseguenza sono costretti poi nell'unico giorno di riposo, che in generale rimane la domenica o il festivo, si piombano a fare le compere. Ovviamente questo scremato da tutto quello che può essere, no, una deriva culturale della società rispetto al consumismo, cioè il sabato e la domenica, piuttosto che andare ai parchi e giardini comunali, se ancora resistono, spesso si va nei centri commerciali. Sicuro è che però è vero che i sindacati hanno sempre, come dire, rivendicato questo. Dopodiché possiamo anche dire che se uno dei settori ha più alto sfruttamento e così via, forse, come dire, la lotta deve essere molto più intensiva. Certo, ecco, poi appunto ovviamente su questo tema potremmo dire tante cose, ad esempio il fatto che non è che prima la domenica o nei festivi i supermercati non fossero aperti, ma c'era una programmazione territoriale per cui un giorno apriva uno, un giorno apriva l'altro e magari così si mettevano meno in ginocchio anche i piccoli esercizi. Però vorrei fare con te un'ultima riflessione, perché ho assistito a un dibattito, insomma, televisivo a cui hai partecipato e le argomentazioni usate, adesso non mi ricordo chi era la tua controparte, si parlava di riders e si evocava la questione dei consumatori, dei clienti, se sarebbero scontenti di pagare di più. La stessa argomentazione viene utilizzata appunto per quanto riguarda gli esercizi commerciali, appunto puntando tutto sul servizio. Tu prima hai poco fa, insomma, hai detto che è anche una questione di come si sta come sta cambiando anche, come dire, la vita di tutti noi. Sì, però appunto la cosa principale da dire è che quello che si fa nella narrazione dominante, soprattutto neoliberale, è quella di separare l'individuo tra la sua fase di consumatore e quella di lavoratore, facendo emergere la parte del consumo, perché ovviamente va molto più a favore delle imprese. Allo stesso tempo, infatti, quello che ci dicono sempre è: sì, però se cambiamo e aumentiamo i costi di produzione, i consumatori non potranno accedere a questi consumi. Dipende da quanto guadagna quel consumatore, che è anche un lavoratore, ce lo siamo detti più volte. Se i lavoratori in generale hanno una massa salariale sempre più bassa e soprattutto devono far fronte con quel salario anche a quello che prima era un salario indiretto, cioè welfare, servizi sociali, eccetera, ovviamente non riusciranno a soddisfare i bisogni di consumo. Allo stesso tempo però noi sappiamo che viviamo comunque in un contesto di sovrapproduzione in cui non tutte le merci in qualche modo non hanno neanche più sbocco, perché da un lato appunto la domanda cala perché non ci sono salari adeguati e dall'altro rimangono scorte di magazzino. Quindi, come dire, cercando di ribaltare sempre questo tipo di narrazione, bisogna riunificare i soggetti nelle loro diverse funzioni, cioè i consumatori sono i lavoratori, cioè i produttori. Di conseguenza, questo per esempio in questi ultimi giorni, già proprio stamattina, la grande polemica di Ryanair e EasyJet contro i grandi scioperi nel settore aereo in Francia. Sicuramente ci state facendo perdere circa, non so, tipo 24 voli a settimana. I consumatori non se lo possono permettere, stiamo facendo un torto a loro, senza pensare che quei controllori di volo di fatto sono dei lavoratori e dei consumatori allo stesso tempo.